Dagli incontri nascono sempre nuovi stimoli, nuove idee. Ma quando ad incontrarsi sono dei musicisti, ecco che nasce qualcosa di profondamente diverso. Qualcosa che rimane e aggiunge una nuova nota sul pentagramma. L'esperienza dei magnifici e di destini incrociati in un nuovo programma, nel quale, attraverso i loro incontri, i grandi della musica danno vita a sorprendenti connessioni per creare nuovi mondi musicali. Radio 24 presenta I Magnifici Destini, un programma di Giacomo Zito. Creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole mi bruciano in mezzo al cuore, amo la vita meravigliosa. La notte del 6 aprile 2009, un terribile terremoto colpisce L'Aquila e i suoi dintorni. L'Italia intera si mobilita per aiutare le popolazioni che hanno perso tutto, rimboccandosi le maniche sul campo e donando aiuti economici per ricostruire. Laura Pausini, da sempre sensibile e attenta alle disgrazie degli altri, vuole fare un concerto per raccogliere più fondi possibile. È così che nasce Amiche per l'Abruzzo, il mega evento ospitato dallo stadio di San Siro a Milano il 21 giugno del 2009, dal primo pomeriggio fino a mezzanotte. La nostra Laura nazionale non è da sola. Si fa aiutare, come rivela il nome stesso della manifestazione, dalle sue amiche e colleghe. Quattro in particolare sono le madrine ufficiali che, emotivamente coinvolte, aderiscono subito. Giorgia, Elisa, Fiorella Mannoia e Gianna Nannini. E proprio la Nannini, la regina del rock, da 30 anni sulla cresta dell'onda, sempre grande e mai uguale a se stessa, la protagonista della nostra puntata di oggi. Cioè, meno male che c'è la musica, io mi dedico a quella, e non sono una parlatrice, sono per fare le azioni, magari associate a dei momenti dove io credo che l'intervento umano, non solo da cantante o da musicista, serva. Però ecco, bisogna saper fare quello che si sa fare, non mettersi in altri ruoli. Emozionando sempre più. Sul palco di Amiche per l'Abruzzo salgono 43 artiste italiane, ma sono in tutto 102 soltanto donne quelle che hanno dato adesione sotto varie forme. Vedo il tempo di oggi, si può risolvere le cose proprio agendo, non facendo i fatti soprattutto. Vengono staccati 60.000 biglietti per il live e 12 network radiofonici italiani seguono in diretta l'evento a reti unificate, raccogliendo un bacino potenziale di 38 milioni di ascoltatori. Dai musicisti ai tecnici, dalle cantanti allo staff organizzativo, tutta la macchina produttiva funziona in modo gratuito. Nessuno vuole un compenso per il lavoro svolto. Anche il palco non si paga, lo offrono i Depeche Mode, che hanno tenuto il concerto la sera prima. Oltre che un evento benefico, è un'occasione di contaminazione unica nel panorama della musica. Basti pensare a certi duetti inediti e sorprendenti come quello della coppia Pausini-Nannini che cantano La solitudine, un brano che ben poco ha a che fare con la voce e le sonorità tipiche della rocker più famosa d'Italia. Anche la parte classica fa parte di noi, quindi poi il rock è un classico, no? Bisogna sempre rinnovarlo, non ci si può sedere sugli allori o sulle cose trovate precedentemente, perché proprio il meccanismo del rock è quello di rischiare sempre fasi di sperimentazione nuove, nuovi suoni, andare in giro, capire che ci sono dei mondi differenti che possono collimare con i nostri, possono essere, diciamo, si possono fondere. Alla fine, conti alla mano, la cifra raccolta è di circa 1,5 milioni di euro tra il live e le vendite del disco che entra subito in classifica. A chiudere il concerto è il brano che la Nannini ha scritto apposta per l'occasione con la scrittrice Isabella Santacroce, dal titolo Donna, Donna. Lo cantano tutte e cinque le madrine insieme, unendo le loro cinque voci così diverse, i loro tocchi così irriconoscibili. E il risultato è da brivido. Respiro che ha tremato assieme a te. Paura, guarda la dolcezza, cosa fa? La prima. le tue braccia, poi sei madre mentre Dio non guarda. Non aver paura, guarda la dolcezza cosa fa. Il carattere di Gianna Nannini in apparenza è ruvido e di certo la ragazza che è appena diventata mamma a 50 anni non manda a dire come la pensa. A un certo punto chi si perdona, no? Queste cose di orgoglio, no? Questo vivere sempre con l'opposizione davanti. Io voglio eliminare questi opposti, questa destra, questa sinistra. Cominciamo a trovare un vero dialogo di chiarezza, di uscire da questi meccanismi che poi dividono, soggiogano e imperano. Rock. È con questo termine che si possono ridurre, anche se in modo semplicistico, sia lo stile musicale che l'indole della cantante toscana. Nata a Siena il 14 giugno del 56, la Nannini ci tiene a precisare di essere della contrada dell'Oca, il che dice moltissimo del suo campanilismo, che se da un lato attaccamento profondo alle radici, dall'altro rivela quella competizione che sentono tutti coloro che sono nati all'ombra del palio. Sono momenti difficilissimi questi, i Fantini stanno cercando di accordarsi, ma... Partiti, è il Nicchio in testa. Nicchio, Oca, Istrice, Piaffa, Montone, Torre, Drago, Onda, un cavallo scosso. È il cavallo della Pantera, scosso. Il Nicchio gira primo a San Martino, passa la Giraffa, si affianca. Il Nicchio è ancora primo al primo giro del Casato. Nicchio, la Giraffa. Famiglia Nannini è molto nota in città. Non ancora per Gianna, naturalmente, e tantomeno per suo fratello Alessandro, più piccolo di lei, futuro pilota di Formula 1. No, se li conoscono tutti è per via di papà Danilo, pasticcere e industriale dolciario, nonché presidente del Siena Calcio per diversi anni e priore della contrada della Civetta. Per strada è tutto un salutare in questa città universitaria bellissima e a misura d'uomo, abbastanza grande per non annoiarsi, ma troppo piccola per farsi davvero una propria vita come si deve. Ha un faccia a faccia con qualcuno con cui devi avere a che fare soltanto guardandoti negli occhi, cioè non ti mandi l'email, non ti mandi messaggi, ma a un certo punto c'è la verifica, quella faccia a faccia, quindi è un po' quello che succede nella vita di tutti i giorni, fra sia nella vita dell'amore ma anche soprattutto nella vita sociale, no? Ci sono tre cose che possono essere usate per rappresentare Gianna Nannini. La prima è la giacca di pelle. Ne ha moltissime, non se ne separa quasi mai. E l'abbina a un look androgino con qualche tocco di femminilità. La seconda è l'accento toscano, mai perso, volutamente preservato dalle inevitabili influenze di chi incontra gente di tutto il mondo. Coltivato non solo come lingua in sé, ma anche come cultura da riscoprire. Non a caso le ninne nanne che Gianna canta a sua figlia Penelope sono per lo più prese dalla tradizione contadina della sua terra. Ninna nanna il mio ciocione, che di pane non ce n'è un boccone, né del crudo né del cotto né del macinato troppo. La nanna incazzata e facevano contadini in tempo del dopoguerra, cioè. E poi c'è la terza cosa, la voce. Quella voce roca, dura, profonda, che si riconosce appena parla. Quella voce che ha dato vita ad alcune delle canzoni più belle degli ultimi anni e che l'hanno fatta identificare fin da inizio carriera come l'unica vera rocker italiana. Il problema che ho avuto io, quando cantavo la voce acustica, per anni, prima dell'epoca del rock and roll vera, quando si faceva i concerti, la chiamo epoca del rock and roll vera perché si facevano i monitor. Quindi monitor vuol dire dovevi sentire sul palco con delle spie, quelle spie lì, e il musicista suonava una batteria, amplificatori al massimo. Questa sonorità era inaccettabile per la voce, non mi sentivo mai, per questo ho avuto la voce rock. Oggi, per esempio, uno che va a Amici, si mette gli auricolari, canta, controlla la voce, quindi non la spreca, ma io l'ho sprecata un sacco. Però nello sprecare mi sono amplificata il corpo, perché non riuscivo come fare con questi amplificatori, quindi riuscivo a amplificare il mio corpo, quindi a dare un'altra sonorità alla voce, che poi è piena di armonici. Bello, bello, impossibile. Chi è il tuo sapore medio orientale? Bello, bello, invincibile. Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Girano le stelle nella notte. Io ti penso forte, forte, forte. Ti vorrei, La musica conquista Gianna fin da quando è piccola. Certo, non si può dire che sia una bambina come le altre, visto che il suo cantante preferito è Domenico Modugno. L'Italia ha una musica internazionale che viene da Modugno, secondo me. Sì, io ho molto rispetto di tutta l'opera di Domenico Modugno, con cui sono cresciuta, perché avevo 5 anni e lo facevo nella piccola sedia con i miei genitori che mi ascoltavano. Ciao bambina, avevo cominciato con queste prime canzoni proprio dell'epoca. E si parla fino agli anni 50, per cui... Volare, in particolare, accompagna la vita della Nannini da sempre. E questa è la sua canzone dell'anima. Sono entrata in sala parto con Volare. Quando me l'hanno portata addosso, piangeva, che ancora piangeva. Io l'ho vista, l'ho cantato queste parole del corso di Volare e lei mi ha guardato negli occhi e ha smesso di piangere. Per questo motivo, nell'album Io e Te ha scelto di farne una cover. Rispettosa al limite della soggezione, è andata a bussare alla porta della signora Franca Modugno e le ha chiesto il permesso di cantare la canzone che ha reso suo marito famoso in tutto il mondo. Lei, felice, le ha risposto di sì e le ha dato anche libero accesso agli spartiti originali. Tra l'altro ho usato una parola che non era nel testo originale, che è piccino. Il mondo spariva piccino laggiù, che è nella versione originale creata da Modugno nel momento in cui ho avuto l'ispirazione. Che la Franca mi ha fatto dono, mi ha fatto sentire questa versione, sono venuti i brividi. E allora ho chiesto il permesso di poter usare questa parola, e poi appartiene anche alla Toscana, quindi la propria radice ce la volevo, era un bottoncino che ci volevo mettere, insomma, un'icona piccola. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Dolce suonava soltanto per me. Gianna Nannini frequenta il liceo scientifico intanto che studia pianoforte a Lucca. La scuola le piace abbastanza, ma non ha dubbi quando le chiedono cosa vuole fare da grande, la musicista. E così decide di trasferirsi a Milano, una città che negli anni 70 è la culla del cambiamento. Jazz club, cabaret, locali dove si fa musica live accolgono i personaggi in cerca d'autore che arrivano qui da ovunque. Musica italiana, musica mediterranea, una musica fatta dall'Italia come bandierina, fatta, perché ci sono state molte influenze culturali diverse, no? L'Italia è fatta di varie influenze. E quello che cerco di fare nella musica è proprio questo, una musica mediterranea che abbia le caratteristiche del rock, non solo del bel canto con l'opera e con la melodia. Nel 1974, per Gianna, è il momento della prima grande svolta della vita. Sta studiando composizione con Bruno Bettinelli, l'insegnante che ha formato grandi musicisti come Riccardo Muti, e ha preso lezioni da un terapista vocale. Si esibisce in giro nei locali storici di Milano e ha più serate nella settimana. L'Osteria dell'Operetta, Le Scimmie, Il Rosso. Incontra il musicista blues Igor Campaner, che l'aiuterà in futuro anche per la stesura di molti brani dell'album Mala Femmina, e comincia a fare i primi provini facendo quasi da pendolare tra Milano e Roma per non perdere nessuna occasione. L'Ariston la vorrebbe, a patto di una sua trasformazione in cantante più tradizionale, ma lei, orgogliosa e sicura, rifiuta. Beh, la melodia è fondamentale, la mia scoperta è me, cioè vuol dire che tutta la mia ricerca fatta fino ad oggi è dove mettere la melodia, in un ritmo ovviamente. Ho lavorato per anni in Europa con le ritmiche mischiate fra inglesi, italiani, tedeschi, proprio perché cercavo questa onda da dare alla melodia, perché la melodia fine a se stessa rimane come nell'opera, ma quello che cambia nel rock è proprio dargli un ritmo fondamentale dove devo far navigare questa onda sonora della melodia, no? Che mi viene così. La numero 1, casa discografica fondata nel 69 da un gruppo di autori fuoriusciti dalla Ricordi per via di alcuni dissapori, decide finalmente di mettere sotto contratto quella ragazza senese dalla grinta inconfondibile. In particolare è una produttrice che presto passerà alla Ricordi a notarla per prima. Il primo magnifico incontro del destino di Gianna Nannini è Mara Maionchi. Mi è piaciuto, per me sì. Voglio il tuo profumo. Se nella notte hai ancora un brivido animale, Mara Maionchi, bolognese doc, classe 1941, è la donna di ferro diventata famosa per i suoi commenti diretti e farciti spesso di parolacce a X Factor, il talent show per aspiranti cantanti che da qualche anno è un grande successo internazionale. Guarda, quando sono in sofferenza io perdo la testa, perché mi fa dispiacere. Sì, Mara, però non finisce qui, come detto. No, eh? Ma no, mi dispiace, voglio dire, mi dispiace anche per gli altri, ma loro erano proprio forti. Mi fa dispiacere, sono in sofferenza. Autoironica e altamente competente, sa benissimo che la riconoscono per strada grazie alla TV, ma ha invece alle spalle una carriera così brillante che nell'ambiente musicale è considerata la signora della discografia. La sua storia comincia con la collaborazione con Ornella Vanoni e Mino Reitano, per poi continuare alla numero uno e alla Ricordi. Intensa e appassionata, è grande scopritrice di talenti. E non è un caso se Morgan, giudice come lei a X Factor, ne difende sempre la professionalità. Tutti dovrebbero ringraziare. A lavorare in questo modo così coinvolto, coinvolgente e appassionante, perché è così che si fa della buona musica. I maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro nelle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte quasi amore. Grazie all'incontro con la discografica Mara Maionchi, Gianna Nannini viene presa come voce femminile del gruppo Flora Fauna Cemento. Con loro scrive e incide Stereotipati Noi, il brano con cui partecipano a Un disco per l'estate. Ma guarda, me dei premi sotto me ne frega niente. Non resiste molto la Nannini in un gruppo. Vuole spiccare il volo da sola e lo fa con il suo primo album dal titolo essenziale, Gianna Nannini, che sarà distribuito oltre che in Italia, in Svizzera e in Austria. Era sicuramente, come italiana, non sentirsi sempre i soliti italiani che guardano quello che fanno gli altri, ma noi abbiamo la nostra musica che deve andare oltre, anche se la lingua penalizza, perché cantare in italiano ovviamente è già una categoria, o riguarda l'opera o non riguarda il rock. La ragazza da look aggressivo, con la parlata toscana e la voce roca, sta per diventare una star. Amarti ma fatica mi svuota dentro, qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. I magnifici destini. Quasi mai, ho goduto tra le braccia dell'inferno che mi dai. Quasi mai, il tuo silenzio uccide un cuore andato in cenere. Ai magnifici destini stiamo raccontando la storia di Gianna Nannini e la canzone che avete appena sentito, Mai per amore, è uno dei pezzi più struggenti tra gli ultimi che ha fatto. Ma sì, Mai per amore, intanto il titolo è molto importante, l'ho scritto su questa canzone che dice sempre quasi mai, perché non c'è mai, non si può accusare nella violenza un sesso piuttosto che l'altro, no? Quindi bisogna stare molto attenti, come dire la guerra l'hanno fatto un popolo. No, non è vero, perché c'è subito un cliché, no? Nel parlare di questi rapporti della violenza. La canzone vuole parlare di questo argomento in prima persona, cioè con la mia di esperienza, e quindi soprattutto legandola a questi film che danno un'immagine dello stalking piuttosto che della prostituzione, piuttosto che della violenza e dello stupro. Credo sia una condizione a cui non bisogna soggettarsi come vittime, perché la vittima rimanda questo problema. Uscire dal silenzio e far sapere quello che è successo, non chiudersi come spesso molte donne fanno. Nata a Siena e attaccatissima alla sua terra, di cui non ha mai perso l'accento, è stata scoperta e lanciata da Mara Maionchi e adesso, nel 1977, fa uscire il suo secondo album, Una radura. È sempre in questo periodo che inventa i suoi primi concerti piano voce. Il concerto è un momento in cui veramente può essere se stesso, in tutti i sensi, no? Fuori dagli schemi della realtà quotidiana. Essere rock non significa soltanto fare rock per Gianna Nannini, che alla sua genuinità di provincia unisce dagli anni Ottanta una rabbia quasi punk. Si diverte a scandalizzare la ragazza e si fa paladina degli ideali femministi cantando brani dal titolo duro come Morta per autoprocurato aborto. Quel cosa brucia dentro me, dentro di me, dentro di me. Si torce l'anima. Cos'è successo? Che cosa resta adesso? Che cosa suono io? Le grida spaesate, le mani morsicate su. Gianna Nannini precorre spesso i tempi, non in modo calcolato, semplicemente perché da vera artista si accorge prima degli altri come sta andando il mondo. Fin dai primi passi della sua carriera si dimostra diversa da qualsiasi altra sua collega. Innanzitutto perché ama mescolare i generi e poi perché guarda molto lontano, all'estero, dove la musica corre molto più velocemente che da noi. Altra cosa che la rende unica, mentre in tanti rinnegano la tecnologia come nemico da combattere perché a loro dire toglierebbe spontaneità all'ispirazione, Gianna se ne serve fin da subito. Io sono stata una fra le prime che ha fatto questo concerto in internet a Firenze, in Piazza della Signoria, ero piccola così. E quindi è stata un po' una sfida, no, al mondo di internet, nel senso che, essendo una cosa molto fisica il concerto, certo, e che lo fai te con gli altri, insomma, quindi non vedere gli altri dall'altra parte non è proprio un vero concerto, io e te e il mio rapporto come questo disco, appunto live che ho fatto. Aperta agli incontri e a tutto ciò che c'è di nuovo, la Nannini accoglie bene l'avvento di internet. Quando le chiedono cosa pensi rispetto al fatto che scaricare illegalmente la musica tolga soldi all'industria discografica e quindi agli artisti, lei dà una lettura tutta sua. La musica non è stata rovinata, anzi credo sia stata rivalutata da internet, perché molti gruppi sconosciuti o perlomeno indipendenti non sarebbero oggi così noti senza il web, perché le case discografiche ovviamente non hanno più supportato la musica, solo il remake, solo il revival. E credo che questo sia importante, cioè crearsi uno spazio proprio, un MySpace, un Facebook, dove la gente fa la propria musica in cui crede. Questo ha ridato tante possibilità. Fammi volare. Lui allunga la mano, si tocca la Ribelle e scandalosa come la Nannini, la statua della libertà che troneggia sulla copertina dell'album California impugna un vibratore a stelle e strisce. Siamo nel 79. Nonostante le battaglie femministe, il 68 ormai passato da più di 10 anni e qualche segnale che preannuncia l'edonismo degli anni 80 alla drive-in, l'Italia, chiusa nel suo provincialismo, non ha mai visto tanto. Il singolo America, contenuto nell'album California, la lancia dritta dritta ai primi posti delle classifiche. In Italia, dove ottiene il disco di platino. E in Germania e Nord Europa, dove ottiene il disco d'oro. Instancabile e mossa da un'infinita passione per quello che fa, Gianna pubblica subito dopo GN, un album dal gusto sperimentale, prodotto da Roberto Cacciapaglia. Un'orchestrazione rock vive dalle chitarre e nel mio caso anche degli archi. La vita e la carriera di Gianna Nannini sono scandite da incontri magici. Per esempio quello con Peter Zumsteg, manager di grande esperienza internazionale con cui la rocker nostrana fonda un'etichetta autogestita, la GN, dando il via a una collaborazione destinata a durare per ben 23 anni. Intanto arrivano le prime proposte dal mondo del cinema. La Nannini compone la colonna sonora del film Sconcerto Rock, diretto da Luciano Mannuzzi e prodotto da Bertolucci. Alcuni incontri sono magici, è vero, altri però sono magnifici. Gianna ha già sentito parlare di Connie Plank, ma nonostante sia già al quarto album, è troppo con i piedi per terra per pensare che un mostro sacro come lui possa scegliere di lavorare con lei. E invece lo fa. Konrad Planck, detto Connie, classe 1940, è il re dei tecnici del suono. Tedesco di Utschenhausen, ha debuttato negli spettacoli di Marlene Dietrich e ha contribuito con la sua creatività a plasmare molte registrazioni innovative del dopoguerra in tutta la musica pop europea. Per farsi un'idea della portata del suo contributo, basti pensare ad alcuni dei generi che ha toccato. Progressive, avant-garde, musica elettronica, kraut rock. Il suo modo di lavorare ha fortemente influenzato la produzione in studio e le moderne tecniche di ingegneria del suono. Oltre che tecnico, è produttore e musicista accreditato negli album di Guru Guru, Kran, Cluster, Lilienthal, Osmundi. Alla fine degli anni 70 ha collaborato con DTR Moebius, mescolando techno ed elettronica in una maniera che avrebbe influenzato parecchio i musicisti successivi. Per farla breve, Gianna Nannini, quando lo incontra per la prima volta, emozionata come una bambina, non riesce a proferire parola. Le ci vuole un bel po' per sciogliersi e fargli ascoltare qualcosa. L'incontro con Connie Plank segna per Gianna Nannini l'apertura al successo internazionale. Lui non solo la guida per aiutarla a cercare nuovi suoni, ma le presenta grandi esponenti della musica che accettano di collaborare al suo quinto album. Annie Lennox, Jackie Leibseit, Annette Humpe. Esce Latin Lover, prodotto proprio da Plank, che diventa in pochissimo tempo un grande successo europeo. Disco d'oro in Germania, Austria e Svizzera e platino in Italia. Sempre nel 1982, ad ottobre, la Nannini sale sul palco del leggendario Rockplast di Essen per un mega evento della durata di 5 ore in diretta a Eurovisione, insieme a Kid Creole and the Coconuts e a Little Steven. Le tremano le gambe quando ripassa la scaletta mentre scalda la voce, ma Connie è con lei e fa il tifo, sa che la sua ragazza italiana li stenderà tutti. L'esperienza non lo tradisce, ha visto giusto. Latin Lover supera i confini europei e invade il mondo andando a ruba sugli scaffali di Israele, Messico, Paraguay, Corea del Sud, Canada e perfino nei difficilissimi States. Io ho lavorato da anni per trovare un rock sinfonico che comunque fosse parte della mia del mio mondo mediterraneo, del mio modo di fare musica, della mia ritmica mitteleuropea. E quindi è importante che usciamo dai confini. Soprattutto non ne creiamone di nuovi. Per me cantare all'estero non vuol dire essere in un paese straniero, perché la parola straniero non l'ho abolita e mi sento italiana ovunque. Il successo di Latin Lover va ricercato in una combinazione di elementi, ma di certo il contributo del genio dei sintetizzatori di Connie Plank ha una grandissima importanza. Non è un caso se l'hanno voluto anche gli Ultravox e gli Eurythmics. Tutto quello che fa diventa oro, Gianna lo sa benissimo. Non vede l'ora di vedere cosa farà per il prossimo disco. Vado punto e a capo così, spegnerò le luci e da qui sparirai, pochi attimi, oltre questa nebbia. I magnifici destini. Ai magnifici destini siamo alla svolta di Gianna Nannini, la grintosa rocker senese che da 30 anni continua a stupire con grandi brani cantati dalla sua voce inconfondibile. È come il vino, ci sono le annate buone, poi quelle un po' meno buone. È un periodo che mi vengono delle canzoni incredibili, che io quando mi arrivano queste canzoni le scrivo, ovviamente sono come dei doni che ricevi dall'ispirazione, no? Quindi basta mettersi in sintonia con quello che te vuoi captare di verità del mondo e ti accadono queste cose. Scoperta da Mara Maionchi nell'82, esce con il suo quinto album, Latin Lover, che la proietta nelle classifiche di mezzo mondo. Il merito in gran parte è di Connie Plank, mago del sintetizzatore che ha portato nella sua musica suoni mai esplorati prima. La Nannini è molto prolifica. Scrive, compone, tiene concerti in giro per l'Europa. Due delle sue canzoni, Vieni ragazzo e Come un treno, entrano a far parte della colonna sonora di Identificazione di una donna, un film firmato Michelangelo Antonioni. Sei mai stato in deltaplano? No. Ecco, neanch'io, ma me lo immagino. Ecco, io vorrei avere con una donna quel tipo di emozione lì. Invece bisogna sempre parlare, dire qualche cosa. Il silenzio pesa. Invece io vorrei poter stare zitto con una donna. Insomma, poter avere con lei un tipo di rapporto come con la natura. A meno che tu non sia matto. Davanti al mare, in mezzo a un bosco, da solo che fai? Guardi in silenzio. Però senza che tu te ne accorga, un dialogo c'è. Parli e rispondi. come se ci fosse un'altra persona. La donna ideale per me è quella che si identifica con quest'altra persona. La donna ideale? La stai aspettando? Già, la sto aspettando. È come un treno che si ferma a casa e qualcuno sai che scenderà, come scivolando piano piano dove non si sa. Antonioni è un nome prestigioso. Gianna riesce ad averlo per il videoclip di Fotoromanza. È uno dei primi casi in Italia di cineasti prestati alla musica in questo modo. Il singolo fa parte di Puzzle, il suo sesto disco, e diventa immediatamente un grande successo. Trionfatore del Festival Bar, l'evento che per anni ha segnato l'inizio e la fine delle estati italiane, diventa il tormentone di quella dell'84. Non c'è radio che non la trasmetta, dedica che non la richieda, bar che non la faccia girare in loop. Appena finita, un'altra volta e poi ancora. E intanto Gianna, sempre più perfezionista, continua ad affinare gusto e tecnica. Innanzitutto l'orchestra che uso io non è proprio nei canoni del classico, perché il classico, sapendo un musicista che fa l'opera classica e sente le chitarre, prende la cuffia e la posa, non ce la fa a suonare con le chitarre, proprio perché è un elemento disturbatore. Creando molto più rumore, una chitarra acida, un amplificatore non ce la farà mai con l'acustico. È una scena rallentatore, questo amore è una bomba all'hotel, questo amore è una finta sul ring, è una fiamma che esplode nel cielo, questo amore è un gelato. Internazionalità da una parte, forte legame con l'Italia dall'altro. La Nannini produce l'album Mala Femmina con Alan Mulder, che lavora con band del calibro di Smashing Pumpkins e Nine Inch Nails, e canta con Edoardo Bennato l'indimenticabile sigla dei mondiali di Italia 90. Dall'8 giugno all'8 luglio la penisola si tinge di bianco, rosso e verde per supportare i suoi ragazzi e accogliere le squadre rivali. Sono notti magiche, inseguendo un gol sotto il cielo di un'estate italiana, come dice il ritornello. Una piccola curiosità. Si tratta di uno dei primi singoli che contiene una versione strumentale indicata come versione karaoke. Non a caso Fiorello sta per diffondere il fenomeno portandolo nelle piazze. È stato forte, si era perso un momento, poi ha avuto una rincorsa, ma quando c'è tutto, questo non c'è più. È stato bellissimo il suo nome. Matteo. Come il nostro cavo, davvero. La carriera di Gianna Nannini continua tra l'impegno sociale, Greenpeace e Amnesty, le associazioni che supporta con azioni concrete, e la musica. Scrive, compone, sforna un successo dopo l'altro, facendosi aiutare da collaboratori che nel tempo diventano per lei essenziali. Per esempio, Will Malone, produttore e direttore della sua orchestra, senza il cui consiglio non muove passo, o la scrittrice cannibale Isabella Santacroce, che lavora spesso a quattro mani ai testi dell'amica. Ma i testi, per esempio, Isabella è molto più diverso da tutti gli altri, si fanno per telefono ultimamente, ci si conosce troppo bene, allora basta un attimo. E anche perché magari se ci si trova vicini si fa un po' i compiti, no? Diventa un po' fare compiti a scuola. E questo impedisce alla parola zen di arrivare, di attraversarci in una sonorità che è adatta poi alla melodia. Ma la Nannini fa l'autrice anche per gli altri e porta fortuna con il suo tocco. Siamo al terzo magnifico incontro del destino. Lola Pons, cantante di talento che ha già interpretato Esmeralda nella versione italiana di Notre Dame de Paris, firmata da Riccardo Cocciante, si presenta a Sanremo del 2008 con il singolo Colpo di Fulmine, in coppia con Gio Di Tonno. Il brano vince Sanremo e rende Lola Pons l'unica cantante straniera ad avere mai vinto il festival. A nulla servono le polemiche scatenate su un ipotetico plagio. La canzone è un grande successo. Perduta mente mia, così impaziente viva, un raggio della luna caduto su di me. Perduta mente mia, inferni, che Dio mi fulmini, l'amor del cuore avrò. Gianna Nannini non la ferma nessuno. 17 album, una laurea con lode, una figlia a 54 anni, Penelope. Il tutto senza mai smettere di cantare, con la stessa rabbia, con la stessa passione di sempre. Perché questo il suo magnifico destino. Gianna è capace di tutto, per cui secondo me anche questo fa parte del film, delle sue capacità. Sei stato tu a scegliere solo bugie per vincere anche stanotte. Vuoi distruggermi come